del microfono. Tutto a tratti stai uscendo. K, comunque Lucio, mi sentito, sono in compagnia di Vela, di Bombolo, dell'amico Johnny da Monteoro. Vai per chi vuoi, Lucio, se riesco a ascoltarti. Sì, se mi sentite, buonasera a tutti. La voce non mi è nuova, però non mi ricordo con che nominati uscivi. No, no, sempre questo, sempre sguscio. Sempre sguscio, strano. Ma vabbè, non mi ricordo allora questo nome attivo. Vabbè, ripeti che se lo senti a sguscio. È attivo, non sento neanche a sguscio. Vuoi sapere, piuttosto un amico di Monteoro, se lui riesce a copiarmi in quella zona. Sì, sì, lui ti sei. Stazione Guscio, io la sento, bassa, bassa, bassa, ma l'ascolto, è percepibile, un Santiago basso, però la radio è comprensibile. Ciao Guscio, mi sembra tantissimo, buonasera, sono a 34 cose di camera, ascoltato. Non so, purtroppo mai sono degli scherzi della frequenza. Gianni, a te fai girare rilancio a Bombolo che sta facendo un bianco, c'è il pennello, se Bombolo cambio. K, comunque salutoni anche all'amico Guscio, se non ho sentito male, Antonio Bombolo da Sassari. Sì, buonasera, io ti sento, passo passo, allora io un antenino da macchina e su Poggiolo, pure più avanti metterò una antenna. Come mi arrivi quasi noi? Tu già, perché io non riesco a sentirlo bene. Ha detto che ha l'antenino di macchina sul Poggiolo. Io lo ascolto quasi 8:30, dai, quasi 9. Qua stiamo arrivando bene. Sguscio. Ma la radio com'è? Buona, buona. Normale ma buona. Una bella radio. È chiara. Non so che apparecchio stia usando tu, ma io sto usando un Galaxy Saturno Echo. Penso che lo conosci, se sei stato 15 anni fa. Io c'ho un fratellino, il Tornado, con l'MD4. Raga, io c'ho giù 5 come microfono, adesso comunque sto usando il DM1000, diciamo un microfono nuovo, però che si può assomigliare all'M300, vai. Ho capito, sì. Ma io lo trovavo ai tempi di Maestrale, di Natalino, non so se te li ricordi. Come non me li ricordo, io li conosco tutti e due, sia Natalino che Maestrale. Maestrale sta andando via a Sassari, ha aperto l'attività vicino a Tempio, mi pare. Quindi ha chiuso giù. Cappa. Natalino siamo amici, dai. Ascolta, se metti Maestrale con Natalino, che io faccio i numeri in questi anni di lungo bianco, vi faccio sentire anche con la radio se hanno ancora qualcosa o se hanno ancora un cellulare di sguscio, già mi conoscono. Appaga. Natalino ogni tanto entra, Maestrale ha venduto tutto, si è venduto tutta la stazione direttiva, anzi la direttiva è la Mantova, la Turbo ce l'ha ancora, le sta vendendo, però tutti gli apparecchi, tutto quanto si è venduto. Io mi ricordo ai tempi che facevamo packet, che figata. Già li ho conosciuti anche io quei tempi. Natalino ha preso parecchi diplomi sui pacchetti che faceva. Sì. Avevamo, io pure, presidente della PGR, della Coso Sarda, diciamo. Magari ti conosco, io sono amico di Natalino, quindi probabilmente Adriano, Natalino, tutti quelli io li conosco. Sì, noi ci conosciamo anche di persona, diciamo. Sì, ma anche la tua voce non è nuova, sono passati tanti anni, avevo smontato tutto, adesso ho comprato casa, piano piano mi sto sistemando. Sistemati. Se l'antenna la vuoi mettere sul tetto, guarda, c'è una direttiva in vendita per la 27 e la Mantova-Turbo che sta venendo maestrale, e non so se ti può interessare, magari io chiamo a Gigi Vulcano che la stava, me lo stava dicendo lui. Non lo so, vediamo, dai, nel caso, adesso cerco di rintracciarlo, Antonio, vediamo un po'. Ma vabbè, non voglio monopolizzare, riprendi Pierpaolo e Fagila. Ma riprendo io e mi saluto tutti quanti, dai. Ciao, ciao, mio amico, qua mi pare Scuscio, non sono la lavora, non so se lui mi sente pure. Comunque lo saluto. Soppresso da interferenze di modulazione. E cosa volevo dire? Gianni, ho bisogno di un'informazione, visto che conosci così tantissimi amici di Sassari, io ho modulato circa più di 20 anni fa con uno che era un vero amicone di Sassari e abbiamo fatto un scambio di quelle e tutto, ma non mi ricordo di quella presenza. Non so se è ancora esistente o se purtroppo non è più in esistenza. A te Gianni, prima di andare con gli amici, cambio. Mi devi dire come si chiama però. Ah, ma non mi ricordo più, sì. C'ho la USL ma non mi ricordo più. In tutti i modi era proprio di Sassari, l'ho sentito, eravamo in montagna, l'ho chiamato, ah, poi mi ha copiato quando gli ho detto che ero di Sassari anch'io, che ero all'estero, siamo stati a parlare, ma è stato bellissimo, guarda. Poi io l'ho ascoltato ancora, ma purtroppo quando vengo giù sai vado a tantissimi ma. E non è stato più possibile ricontattarlo. A te Gianni fa girare il cambio. Se dico di vecchi, cosa ti posso dire? Ti posso fare qualche nominativo, se te lo ricordi, Mario Mao, cosa ti posso dire? Gian Maria Figaro, Torino Kawasaki, cosa ti posso dire? Non lo so chi possa essere di vecchi. No, avevo un nominativo di una stazione strano, non so come mai di qualcuno di Porto Torres, non so, Tocaio o altri così, poi ce n'erano due o tre di Cagliari, che non erano neanche di Cagliari, erano di fuori di Cagliari, mamma mia, c'era una ragazza tutte le volte che mi sentiva entrava, non mi ammalava più, sì. Monti, non voglio prolungarvi, dai, fa girare, a te Gianni, cambio. Cappagà, Tocaio, me lo ricordo, ma mi pare che sia morto quello lì. Kappa. Avanti Antonio. Stazione Rai in quei tempi lì. Ma ho capito, come mai a Milano non ci sta più nessuno? Milano? Gappa, di dove è lui? No, non è di Milano, Johnny. Di Sassari, ma è di Svizzera. In Svizzera, Bibbe. Ho capito adesso, io credo che era, viveva a Milano. Avanti Scuscio. Sì, grazie già. Ascolta, posso chiedere un controllo su un secondino solo, vi rubo la conversazione, giusto un attimo, mi dai un controllo adesso? Sì. Controllo ora? 5. È sceso parecchio? Stai usando 100 watt. Non ho capito. Stai usando 100 watt. Yes. Vedi che furbi. Ehi, guarda. 140, il 440, lo dato tutto a voi. Perché il 140 l'ho dato? Ma cosa stai usando, comandante? I dettagli? Non ho capito, scusa. Che tipo di segretario hai? ZG? Yes. Non sto distorcendo niente. Va bene. Appaga. E io quando ti arrivo di segnali lì? Ma se te lo dico non ci credi. Dimmelo. Santiago 5, Radio 5. Io? Yes. Non vi credo. Oh, guarda, lo smetta mi stai arrivando così. Aspetta, vediamo un pochettino. È così quando ti arrivo, guarda. Sentiamo un po'. Ma allora è l'antenna tua che non va. Lo so che l'antenna via, è 20 centimetri l'antenna. E allora cosa vuoi pretendere? Io c'ho una mantova 5 sul tetto. È abbastanza in alto pure. Mi sembra strano, perché la vedo tutta quella zona lì, dal tetto la vedo tutta. Ma infatti è per quello che ti sta arrivando, altrimenti non ti sarei arrivato. Sì, quando arrivi, ho già. Lui a me arriva a 7. Lui, tu a lui. 5. Ma a me mi sente l'amico. Sì, piccolino, ma ti sento. Ah, allora mi cupi pure a me. Sì, a tutti, cupi. Ah, è perché pure io lo sento qua, non lo sento molto forte, però lo sento. Anche lui ha detto lo stesso. Appagappa. Oh, iaia. Comunque ci fa piacere, se metti l'antenna grande, d'inverno ci sono le ruote, quando non si può uscire e cose, ci sono le ruote di sera, dopo le 8 si fanno le ruote sino alle 10:30, 11. Io ogni tanto accendevo questi anni, ma era sempre bianco, cioè sentivo sempre, cioè non sentivo più nessuno, poi mi sono perso tutti i vecchi e tutto quanto. Ascolta, già, una curiosità, e a livello degli amici dell'Ecco come funziona? A livello degli amici dell'Ecco, in che senso? Gli amici simpatici. L'Ecco ce l'abbiamo quasi tutti qua, perché ci sono persone che non lo sopportano l'Ecco, capito? Come microfonia. Noi ci siamo scelti un canale, abbiamo detto qua noi facciamo quello che vogliamo, noi lo mettiamo, se vogliono entrare entrano, se non vogliono entrare girano un canale. A noi l'Ecco piace, lo usiamo, l'interessante è che sia usato in una maniera adeguata, io perlomeno non penso di non averlo altissimo. No, scusami già, no, ti volevo dire una cosa, tra le righe, tra virgolette, non era proprio l'Ecco del microfono, volevo sapere con gli amici in camionetta. Ah, ho capito, dai, ho capito, sì, stavo girando, ancora. Gappa. Quanto me ne importa di quella gente? Vabbè, tanto meglio mettersi in regola, non c'è. Noi lo siamo e quindi siamo tranquilli. Comunque, tu se hai la possibilità di metterla sopra il tetto, fallo. E d'inverno poi ce n'è di gente, adesso d'estate un po' meno perché sono tutti un po' al mare, in vacanza, questo e quell'altro, poi d'inverno quando c'è freddo lo vedi dai etichetti. Ci credo. No, io sono in casa dipendente, quindi è tutto mio, ma non ho problemi. Vabbè, quando la piazziamo la questa antenna? La piazziamo. Ne ho una nell'altra casa, la devo smontare dal tetto, ma ormai è andata quella, quindi l'antenna non si tocca, me la prendo e così via. No, quando la piazza tutto quanto nuovo, così almeno non ci pensi più. L'apparecchio adesso stanno facendo l'S9, che se vai su internet lo vedi, e l'S980, che sono apparecchi eccezionali. Però e lo vedo. I baracchini dici, l'antenna? No, baracchini. Ma e con i canali com'è? Meda. immagino. Ho capito, ma tornava al discorso degli amici in camionetta. Lo so. Non si può avere botti piena e moglie in bianca. Anche quello è vero. Vabbè, ascolta Gianni, dai, allora io vado in corretti, perché mi sto cancarando un dito perché mi si è dissaldato il polo nero, il polo negativo del microfono, ce l'ho infilato dentro e mi sto ammazzando. E poi vado a mangiare una cosa e poi devo uscire con la parallela. Ascolta, niente, allora ti saluto, mi ha fatto veramente piacere, sono contento che vada male, sto arrivando, ci sentiamo in questi giorni, sempre sul 21, guarda, girami il saluto per favore a Giampaolo, l'amico di Monteorro, ad Antonio, scusa. Niente, buona serata a tutti e ci sentiamo presto, sguscio, ciao ciao. Aspetta, sguscio un attimino che ti voglio dire che avevi fatto riprodurre la frequenza, dopo 10 anni siamo incontrati in Natalino. E gli ho chiesto se riattaccavamo tutto e noi abbiamo ricominciato da capo. Adesso ti saluto e ti auguro buon corretti. Quando poi siamo qua non c'è problema. Antonio e l'amico mister Giorni, se siete rete, vi salutate da sguscio che sta facendo corretti. Qua riprende mister Giorni. Ciao a tutti, faccio l'ultimo ad ascoltarti. Gianni, mi sembra che quell'amico lì si chiamava Gabbiano, adesso non mi ricordo più se era Stati o se era Portatore. Dove di quella zeta era Gabbiano, però sai, perdo punti ogni tanto anch'io, eh. Mi muovi i complimenti Gianni per la tua stazione, perché mi arrivi qui in 9 e Radio 5, gli altri mi arrivano un po' meno, un po' più avanti, e l'amico lì in Popolo mi arriva forte, però la radio non è comprensibile, E allora chiudo anch'io, faccio corretti, e buonanotte, curiosità e saluti. A te Gianni per girare il cambio. Ciao mister Giuni, dai. Ti saluto. Ci ha fatto piacere fare questa modulata. Comunque Nino Gabbiano era dalla Bancali che modulava esattamente. Nino Gabbiano. Ma può darsi che era lui, cambio. Modulava la Bancali, KK. Avanti Antonio. Papà, chi è che sta chiudendo già? Che io mi sono dovuto assentare. Tra 2 minuti sto chiudendo. Mister Giuni è l'amico. È entrato anche, è andato via anche sguscio. Vi ha salutato tutto. Allora, salutone a tutti e due allora, va. Pagava. Mi sa siamo rimasti noi due. Io tra un po' dopo uscire. Esci, non c'è problema. Va a prendermi il fresco. E anche io adesso me ne esco, mi freddo la moto, me ne vado a farmi già platta moto. Tanto in casa non mi mostro nulla, è troppo caldo. Vabbè, c'è un bel caldo, cioè. Oia, mamma mia che... Oh, che si muore. Sì, perché l'anno scorso lo facevamo, quest'anno invece non ci stiamo salendo a prenderci un po' di fresco. Cavolo, vabbè. Non è che... non lo so. Vabbè, non c'è problema. Io già so andare lo stesso, prendo la moto, vado e mi faccio un giro, non c'è problema. E mi sa che in questi giorni adesso non è ritorno lì al ciso, così almeno me ne sto all'aria, perché tanto qua cosa vuoi? Siamo in due sempre. Questo è il disegno, una palavra. Ebbene, vabbè, lo credi. Perché la gente già entra. Chi uno, che due già entra. Ciao già, ciao a tutti. Io sono acceso, sono appena rientrato. Però c'è troppo caldo, mi ricordo un busto per questa alimentazione tipo una stufa. Troppo caldo onda. Ma gli alimentatori non mi scaldano, proprio quelli non mi scaldano. Freddi, proprio freddi. Rimangono vedi freddi. Quello che scalda l'apparecchio. Vabbè. Lo so, ma io ho anche quelli che c'erano fuori l'alimentatore. Se poi attacca lo che 80 ce la fuori. Guarda, è così, fa pare che scava in questo spirito, è un po' così qua. Ci vorrebbero dell'effetto, perché ti dico una cosa, scalda di più, se non smettono fatto perché c'ha le lampade per illuminarlo, scalda più quello lì che è l'alimentatore. Lo faccio, è un furio bombolo. Però già si riesce a fare lo stesso il cuoceo, dai. Sì, ci riesci a voglia. Tu mi fai come facevo io quando ero a Sacro Cuore, quando c'era caldo, tutti quanti scendevano nelle panchine, ai giardini, tutti i palazzi si conoscevano, nei dintorni, tutti quelli che abitavano a Sacro Cuore si conoscevano tutti quanti. Perché si sedevano tutti lì, parlavano, gli anziani con gli anziani, i bambini giocavano, insomma era molto bello così. Se cappa gamba. E meno, proprio questi 2 ore così di qua se ho, eccetera, eccetera. E poi magari se con Puglia prendiamo il fresco, come che. Poi che tocca attaccare dei nocchi un bel no. Vabbè, in effetti c'è molto caldo, Allora, quelle 2 orette di chiacchierata già ci possono sempre fare, non è che... Vabbè, ma io dico una cosa, so con quel fracco non la giocano, ma con cos'è, non faccio nulla, buonanotte. Non ne ho voglia di uscire, c'è la voglia per il caldo ce l'ho, però sono stanco, vorrei fare, ma non riesco a fare nulla perché ho una stanchezza addosso che mi grida. Entra in sala, non vedrai che sto coso. Se vado in sala non parlo qua. Chiama, quando non fa vedere no, che se ne intrighive. E infatti c'è già posizionato il computer, mi accendo il condizionatore e me ne sta il computer. Intanto io la sto chiudendo, va. A manco di concilio il freschetto. Vaga, vabbè dai, ciao, ci sentiamo. Buone cose. Occhio alle vecchiette. Sono là, certo. Dai, ce la risentiamo, dai. Almeno un po' caldo, vediamo lo fresco. Ciao, ci sentiamo. Avanti, Luca. Allora, alla prossima. Ciao. Beh, Luca, a Pescara andata. Poi attivo già. Fate certe pescate notturne io, sono andato bene. 3 notti sono andato a Plattamona, ho pescato bene. Poi una notte mi ha fottito, non ho ripigliato nulla. Vabbè, 3 volte, 4 volte, sono andato 3 volte, ho pescato bene. Ci è andata bene, Ci vuoi mangiare gli occhi? Mangiamo. Babona, va. Tu picchietto la pudica. A me me l'ho regalato stamattina, mi ha regalato le sardine, un cliente, ma tu mi tiragli un rimonito, erano i 20, intanto sapevi dove vieni, tiragli un rimonito, catta con la mia sardina, ma belle lì, grandi. Ho detto come farle, come non farle, ho preso e ho fatto il filetto per farle impanate, no? Sai come si fanno con la semola, con il semolato? E poi si frigo, no? Senza spina, senza nulla, proprio buono. E invece sono andata a prendere il semolato ed era finito. Allora me ne sono inventata un'altra, me le ho fatte con i capi, il pomodoro e un po' di olio. Ma lei anche arrivò. Sembrava il padre di sapore della pizza con le acciughe e il capo. Però non le ho fatte tutte, no? Ce n'ho ancora. di frizza che ho messo perché magari me li uso a pescare o per grumigiare. Perché per pescare sono meglio le arose, delle sardine, sono più dure. E poi la pesca con la frutta. C'è gente a Polotta che si fa d'oro con la pesca sardina. La mette in terra, la sembiate fin pesci. Oh, è difficile che prendi perché quando la mattina cacciamo gli altri pesci unici. Ma se bili, o io la mando in pesci bili. Sì, un po' caldo c'è già qua dentro, non vedo un murelli, troppo. Uiaia. Però se vedi, diciamo che non lascia qua, capito, la moto ci riusciamo in moto. Non mangiare ancora, adesso mangiamo sul fritto, lo facciamo mangiare salata. Dopo il fritto, lo facciamo mangiare la doccia, sono tutto quello di qui, mi stanno i capelli un po'. E sono tutto quello di qui già addosso. Ho capito. E vabbè, comunque, diciamo che io sto mangiando roba fresca, caprese, roba così, perché primo non sto mangiando. Allora, ma pizza? Non ho capito già. Ho detto che non le sto mangiando io di primo, sto mangiando caprese, insalata di mozzarella con pomodoro e l'origano, così, roba fresca, verdura, frutta. Sto computer, mamma mia, va. Aspetta. Cazzo che è caldo, non si può, non si botta. Via. Insomma, ma se posso dire che sono veramente buone. Chi sei di qui? Punti che è la tele da. Ah, già sono buone. Quando le mangi subito sono buone però. Perché se stanno incartate si fanno molli. Io l'ho notata. Se le mangi subito sono belle croccanti. Non si può fare, tira. Non si va. Non sono buone. Metto a 5 di che sta sempre a fare, a comprarmi delle pizze. Poi non ci sono andato perché mi vergognavo, ero tutto quanto bagnato da sudore, tutto, ma completamente la maglietta attaccata al corpo, i pantaloni bagnati, tutto in fusto. Come già vedda, Mi avessi, mettiti. Vabbè, come state, cocomani. Stiamo bene, è caldo, c'è. Ma io invitaci la birra che stiamo sulla sua bercia. Per me va bene anche adesso. Ma che salire. Andiamo, la prendiamo, ci arriviamo qua fuori, io faccio freschetto invece. In terrazzino. Stai facendo la turista, no? Sono in mutande, in terrazzo, tranquillo, mi se ne frega. Quando mi vedo gliela faccio vedere. Ti arrestano per attirci di luogo pubblico. Sì, aspetta, apri la porta a fare in pantalone toccato lo caldo che c'è. 30 gradi che sei nonchi. Senta, se non sono di più, anche 40 sarà arrivato. Sto dicendo che oggi lavorando non mi ho messo manco il camice, non mi ha detto nulla, lo principale, cosa strana, ma avrà capito sicuramente perché non me l'ho messo. Non mi ho messo manco il camice, mi sono bagnato tutto, maglietta, pantaloni, tutto infuso, completamente, tutta la maglietta bagnata. Già un grido, toccando che c'era stasera, io già sono salito su a Usino, ho mangiato, mi hanno invitato, ho mangiato di quella zucchine fatte in forno, tipo tortina, poi il vino, acqua fresca e via. Si chiama sformato. È buona, buona era. Io invece ho mangiato la mozzarella, la caprese, i pomodori, mozzarella e origano, e poi mi sono mangiato un po' di gelato, una vaschetta di gelato. No, io in campagna c'ho frutta, no? Ci ho fatto un misto tra pere e susine, cosa ne dire, tutte messe in frigo e me le mangio così, capito, messe nel bicchiere e me le mangio belle e fresche, capito? Una specie di macedoni abbiamo fatto. Ci vogliono queste cose fresche adesso, c'è poco da fare, non bisogna mangiare nulla di calorie, se no ti grippi. Io non so, io ho messo la pasta stamattina, mi stavo sciogliendo quando l'ho mangiata. Sì, ho mangiato questa salsiccia che era un bel buona, ma crepato. Stamattina c'avevo bruciato di stomaco, non ho mangiato troppo. Ma buona, mi di tempio, me l'hanno costata, ma era un bijou. Io gliel'ho mangiata gratis, quella che fa Gambino Sale, ho mangiato. La fino sale fa la salsiccia capa, ciao Patrio Piccio, lo sapevi? Sua usino fa la salsiccia del vento, se non ce l'ha. Allora per esempio a usino di fronte al campo sportivo sali su da strada per andare in pratica, che poi ti porta al cimitero, potrei arrivare al cimitero, c'è una dritta sulla sinistra, capito? Dio, sì signore. Io l'ho mangiata fumicata, ma a me mi piace un po' fumicata, però esagerata ieri, ho mangiato solo quella, ma esagerata, mi piace un bel. E la fumicata poi ci sono i finocchietti in mezzo, c'è altri aromi naturali, ma non si assaggiare quanto è buona, mamma mia. Guarda, se ti finisci la mangi tutta. Ma secondo me c'erano troppe spezie, troppo pepe in questa qua. Era un po' saporita, però secondo me hanno abbondato troppo con gli aromi. Aspetta un attimo, 2 secondi. Stasera alterna uno, Praticamente la sera prima di chiudere ha rotto la locola a fare lì, con la passerella lì, la finale, il terminale della passerella, lo arrotolano e poi ritirano tutte le carrozzine e cose. Se no capace che magari vanno e vanno a rifacciare i bruisci. Sì, come minimo. Magari. Però deve essere forte, per uno che ha paura. Certo. Io ne ho visto uno con tanta difficoltà portandolo sino alla battigia, che camminava un bel male, da un'operazione così. Ovvero, se hanno fatto un'operazione, hanno sbagliato, gli hanno toccato un nervo e cammina tutto a ritroso, tutto messo male, povera. Sì, lo so. Però faccio un cerchio di uno così. Lo iuia. E cosa ti ha fatto? Stai detto. Ehi Luca. Ehi. Ehi Luca come fantasma, ogni tanto appare e poi scompare. Perché poco volta ci butta tanti fare, prima sta lì, cambiamo canale insieme alla ragazza, ecco. Io lo facevo quando parlava Falcone, lui parlando, e io giravo già nell'altro canale. Ma sai che ho visto ieri a Leoncino, te lo ricordi a quel Leoncino? A chi? A Leoncino. Leoncino? Leoncino. Quello che lavorava alla frazione, ti ricordi quello con gli occhiali, quello con la sottello? Ah, che ha poco capito. Chi città? Chi se ne ruba? E la frazione era ieri sera al circo, la faceva un barattino. E mi ha detto, diciamo, sai che è morto? E so che è morto, dice, per Andrea, va, e dove non è morto quello. Ehi, è morto da parecchio tempo, mi ha detto. Tu? Ma gli non so niente, no? Se è più forse è morto, non ho più visto e basta. Io invece l'ho trovato in via Baldetta una volta, non è manco da molto, sarà un 3 mesi fa, a lui sempre, a Leoncino. E lui dice, beh baracchi, noi già me lo voglio piazzare di nuovo, ma se non c'è nessuno che me li vende, ho detto guarda, io ne sto prendendo uno se ti interessa, noi ci possiamo mettere d'accordo, ma non ha detto né commenti né niente. E a me mi ha detto, dice, ma vai in baracchino, dice, poco a poco a poco, vai in giro, io ho detto, vai. Che cosa offendi, Ava? Mi sa che è disoccupato. Se ci aveva una miniera, la stazione. Cosa ti dica? Evidentemente gliela sta male. Il fratello mi ha detto che lavora bene, c'è un circolo, sta bene. Lui, non lo so, che piede ha preso. Non so cosa dirti. E dove lavora il fratello? Via, dove c'è Fusano, via 4 novembre, l'angolo, quell'angolo che poi va, la via passa in via Granante. C'è il circolo lì. Ho capito. Capito, Ma risulta di fronte all'Hotel Graziale Vedra. Ah, più su, più su. Ah, la traversa più su è allora. Figlia. Perché lì, a fianco a Fusaro, ce n'è un altro di circolo, di Franco. Figlia, lo so. Delle... Amici, mi sembra che sia. Durante i guardi civili pare che quel circolo, se mi ricordo male. Però lì modulava, mia lì, lo sai. Tanto modulava. E a voglia che modulava. Mica c'era un 112. Un 112 quando modulava, che diceva che era a Torino. Praticamente lui lavorava a Torino, poi si era ritornato qua. Sì, non è proprio più. Hai parlato tutti i principi che ho conosciuto da un tempo fa, quella rete, Io conosciuto tanti, ma tanti, che erano amico di famiglia, ricordami di tutti. Io ne ho conosciuto pochi perché non mi andava a me riconoscere. Volevo tenere l'anonimato. Però qualcuno mi è capitato di conoscerlo, non è che poi dopo che sono andato a Radio Club Nord Sardegna, lì vi ho conosciuto un bel, per forza di cose devi conoscere lì. Lo so, bene, se vai in circolo lui ce lo conosci tu. Anche quando c'è la circolazzata lo trovano sempre. Con questa farmacia a camomilla, a zucchero, a frigorifero, a cacciavite, Radio Antonella, tipo Radio Maria Antonietta, Radio Domenica, e a vedere le bocche. Che noia. Giulli, Macallè, tutti lì li ho conosciuti, Mario Mao, vedi la bocca di niente. E ma sono stati spariti molti quelli. Molti sono morti, tipo Macallè è morto, e anche il figlio è morto a quella. Anche il figlio è morto, cosa ne dici? A quella notte non è morto. Sì. Cappagatto. Gavino Passer è morto, ma va là c'è lo stesso. E ricordo sempre che lui diceva abbassate quel microfono, non è necessario alzare il volume del microfono, bisogna che parlare in sordina, si sente lo stesso e non ti assorda le orecchie. Lei diceva, Alessio, sei un fissato, ogni volta che sono 14 metti sempre musica, io non posso ascoltare mia moglie che mattina quando la chiamo che mi deve buttare la palla, che sta arrivando. Purtroppo, è la vita di tutti quella, Io un collega di mio padre era, un collega di babbo era. Prima è morto babbo, poi è morto lui, figurati, la distanza di 3-4 anni. Sono rimasti pochi di quegli infermieri che erano lì, c'era morto anche un altro, l'ho fatto più prima, sembra che rimasti solo tre. Pappa, di quelli che lavoravano con tuo padre? Sì, solo tre sono rimasti. Lui era infermiere tuo padre, Allo manicomio? Pappa, no. E c'era anche uno che modulava, se ti ricordi, al manicomio, te lo ricordi, tanto può fare. Che parlava da manicomio, come diceva quello, la sua fredda Antonella, fregata, dice, quello ha aperto il baracchino dopo due mesi. Ma cos'era, un paziente o uno che lavorava? Paziente era. Ah, era quasi alle modula. E allora, se no lì. Era dove era Calvino, gli aveva dato il baracchino Calvino, gli aveva venduto lui. Perché avevamo messo l'antennino attaccato alla finestra e parlava con vicinato, non è che faceva granché. Faceva massimo 2-3 km di distanza. E' stato per accontentarlo. Allora. E adesso non c'è più nessuno lì, vero? Sì, sono rimasto un paio di quelli che conoscevo, e loro avevate più bicicletta. Io mi ricordo che quando andavo a scaricare le bibite mi facevano diventare scemo. Un accendino c'era, e l'altro una sigaretta, anzi non faceva scendere l'arcania. Oh, di quasi diventa macco. Poi c'era Mangiafuoco, questo che aveva le ciglia grosse, lo chiamavano Mangiafuoco, che aveva paura a fare un millimetro, col cambio ti mettevi quasi attaccato a livello, no? Non ti attaccavi proprio perché magari si lasciavi i fanali di dietro, là non mi attaccavo, ma ci mancava un millimetro per saltare dal muretto dove dovevo scaricare sino al camion. Beh, questo aveva paura a avvicinarsi. Mangiafuoco, tornava indietro, aveva paura. E ognuno c'aveva i suoi fobi, diciamo, credo. Era dato la libera di Gesù anche, però. C'era anche un altro CB che li modulava, che si chiamava Pinna, di cognome, che era morto. questo c'era un barattino per i tre canali e era sposato con una jugoslava, abitava a Lubiana la moglie, lui a Sassari. Poi mi sembra che siamo separati, ma poi non scusa, era successo lui era morto, mi sembra un incidente, tornando in Italia. E comunque mi stasera è entrato uno, non so se tu l'hai sentito, sguscio, te lo ricordo. E ci ha nominato Natalino, di quando facevano i contest. Volava da Sassa, diceva va 140, 440, mi ha detto, un sacco di apparecchi, che poi è venuto tutto. Dico, adesso rientra a Sassa, si ricopre come 440, 140. Si chiamava Sguscio, si ricorda anche di me, ma io non mi ricordo di lui. E Sguscio invece ha spazzato a Sassa, ha ricordato di tutti. Oramai, a volte a me mi saluta, un ciao Antonio, boh, non mi ricordo più di chi è. Ormai sono diventato un ricoglionito di quello di tu. E io per intuito ciao, però non è che mi fermo, capito? Sì, ormai, sei stato sempre ricoglionito. Un ricoglionito, mezzo ricoglionito, non tutto, adesso non tutto. Dai, adesso così va meglio, scherzando. T'ho pagato. No, ma comunque... Io saluto sempre, chi mi saluto, guarda che mamma Tempesta Italia mi ha fermato questo qua, mi ha baciato, mi ha detto ma l'esame l'hai dato, questo è quell'altro, ho detto sì, l'ho dato, io cioè ho abbozzato perché questo qui era talmente preso, mi fa piacere, auguroni, si è passato bene, un bel momento di fare con la persona, invece non ero io, capito? E non ho avuto il coraggio di dirglielo. Ehi, sì, non si sono. Una volta è capitato a me, mi ha pigliato per un prete. E questo qua mi ha chiesto come stava mia moglie, qua e là, ma se, come si dice, se mi mancavano molti esami per laurearmi, eccetera, eccetera. Questo era convintissimo, mi ha proprio abbracciato, baciato, cazzo, ho detto, magari se fosse stata una femmina. Figurati. C'è bastato mio fratello, aspetta. Oh, ti sento un basso di radio, ma cosa sei combinato? Basso di radio adesso? Adesso già va bene. Aspetta, sto dicendo... Sto dicendo un messaggio che non deve fare tempo, poi è tolto, cioè sicuro. Ah, è morto, cara. Sì, cara, sta facendo il lupo, scusi, perché non mi vede. Cava, cava. E cos'ha, briato da? Ormai questo cane si è abituato a venire qua a casa mia, capite? Quando scende giù a casa di mamma non ci vuole rimanere con il fratello. Allora, quando sente le chiavi che sta arrivando, comincia a abbaiare, va verso la porta e vuole uscire con me, sta arrivando. Quando sta lì più l'altro, si mette sdraiato vicino a me e non si muove più. Ma di chi è questo cane, tuo fratello? Mia. E cosa abbia confuso con lei? Quando no, con lui non ci può rimanere, per lui non rimane, con lui è con mamma. Quando stai con me, dorme qua a casa, è come se lui stesse, sembra un bambino, sembra. Una notte quando sto dormendo si mette vicino a me, si mette la testa vicino al cuscino e dorme. Sembra un bambino piccolo, sembra. Però è amaro, ha musicato pure la vicina a lui. Quando devo fare il ciucucciù non posso farlo perché se non ci fanno che mi si giri mi taglia le spalle. Perché ancora lo fa? Che cosa? Ciucucciù. E io te lo faccio sì, ogni settimana. Così? Sicuro sì. Sicuro sì, per me è il medico. E quando perciò mi devo allenarmi, forse usare il capitolo e usare l'altro. Ce l'ho poi, funziona più così. Appunto. Poi mancano 2 anni a quando nel 2012 bisogna approfittarne. Vediamo che mancano 2 anni. Al 2012, quando ormai poi non si coda più nel 2012. Vengo, scusi, gli allievi ci codano a noi. Ah, così è. Allora, intanto se sente qualcuno al televisore. Oi, oi. Chi è che ha fatto questa profezia? Che guardi faccia che vengono gli allievi nel 2012, dicevano una mano, non so cosa deve succedere, aiuto. Ah, ecco, come succede quello che vuole. Basta che muoio contando, non mi ha fatto un canto a me. Ma tu l'hai sentita quella di Cagliari che ha detto che l'hanno rapita gli alieni e se l'hanno portata su e ne è scesa in città e praticamente l'hanno fatta abortire perché se l'hanno fatta. L'hanno fatta abortire e questa aborto era la forma di un coniglio. Già l'ho vista, cioè ho fatto vedere anche la fotografia. E già è vero quello. Quello di Cagliari, esatto. Ma c'è della gente della Sardegna che hanno preso. Portati su e fanno esperimenti, perché in pratica loro non c'hanno la forma umana. C'hanno forme tipo coccodrillo, tipo farfalle, grosse, alte, quasi 2 metri. E se tu guardi bigliolina, è una cosa guarda, la. Se lo vedo qualcuno bisogna capire tagliare perché ha tagliato il collo. Non vai via che questo periodo ho difficoltà, guarda. Sei a posto, a parlare. Con lui. Sai che andai giù su cose, mi ha impressionato. Non guarda migliorina quando c'è. Quel programma, adesso non mi ricordo come si chiama. E c'è solo racconti di questi che sono stati rapiti in Sardegna, sono stati rapiti quasi una decina a me, figurati. No. Io non so se crederci o no a queste cose, ma sono un po' scettico. Eppure, già è vero, ce ne salgono su, poi ce ne scendono giù, fanno un sacco di esami, li tolgono il sangue, li tolgono lo sperma, li tolgono, fanno esperimenti loro, non so capito perché vogliono fare una. Non devo fare come loro, se ci riesco, hai capito? Oh. E allora, non lo so com'è questa storia. Ma io dico la verità, non vi credo. Se la fosse una pizza a me, mi sarei fatta addosso. Se come ho usato di fare. Sì, per la piscola a me che c'è una le pappa adesso, mi taglio la pizzola e così la attacca la culo. E poi non faccio niente. No, no, la taglio a loro io, no, non a me, no, la bozza. No, te la taglio, ma io sono una greffa. Non ti preoccupare. Già tagliare la leppa, se ti legano al letto, già c'è il metro per tagliare qualche pezzo di carne ogni tanto. Adesso me ne vado un pochettino al computer e va lì. Dai, ci sentiamo che me ne sarò andato a letto subito. Se sono così raccomosso oggi. Vabbè dai, ci sentiamo, ti auguro buonanotte. Io sto chiudendo. Ciao ciao! Sì, ciao, già ci sentiamo, siamo tutti belli. Alle prossime.